Sono le 7:30, stavo dicendo le 8, ma è un po' presto per dire che sono le 8. Ancora mezz'ora, poi lo diremo insieme, speriamo. La nostra missione in questo lunedì 11 di febbraio 2008, l'anno della svolta, è quello di farcela a portarvi fino alle 9. Poi dopo fate da soli, ragazzi, eh. C'è Mister Trombetta, Spadino, Fricantoni, l'Ariele. Questa è la squadra di pane, burro e rock and roll. No, cos'è? Saluti sempre a Manuela che ci porta al ruttino di Emma, la piccola Emma. Ma secondo voi il rigurgitino è rock? Se è di Emma è un rigurgitino santo, sì? Sì. Ciao Manuela, buona giornata anche a te. Mi piace questo tuo nuovo tormentone delle 7:30. Il ruttino di Emma, no? Dovremmo anche andare a registrarlo. No, a te Freak non te lo faccio fare, no. Il tuo Freak non è un ruttino santo, il tuo è una schifezza. Sì, è vero, a una prima occhiata potrebbe sembrare un normale maledetto lunedì di paura. Fortuna che grazie alla redazione possiamo festeggiare i compleanni legati a questo 11 di febbraio. Naturalmente, da sempre Pane, Burro e Rock and Roll sostiene che è giusto riabilitare il lunedì. Ragazzi, ragazze, possiamo farcela! Riprendiamoci il lunedì con entusiasmo! Era il lontano 1847 quando l'11 di febbraio nacque il piccolo Thomas Alva Edison, inventore e imprenditore statunitense. Allora, in qualità di Mike, sì, ecco, devo dire che questo Alva mi suona un po' ambiguo. Perché? Come Abele. Cosa c'entra Abele? Scusi. No, voglio dire, Abele sembra un nome un po' dell'altra sponda. Lei fa il gestino con la mano. L'altra sponda. Mi tocco l'orecchio. Alva le sembra un nome poco maschile. Poco maschile. Fa niente. Fa niente. Proseguiamo. 1926 nasceva Leslie Nielsen. Molto maschile. Attore Leslie. Leslie. È maschile? Nielsen. No, scusi, cosa è molto maschile? Non l'ho capita. Attore. Attore, va bene, perfetto. Canadese. Lo ricorderà sicuramente nell'aereo più pazzo del mondo. Sì, mi è piaciuto tantissimo. Ecco, si risveglia, oppure in una pallottola spuntata. Carino, molto carino. Molto carino, che ha iniziato poi una saga di film demenziali. Entrambi, se posso specificare e aggiungere, anche l'aereo più pazzo del mondo è stato proprio l'antesignano, non so se posso usare questa parola, sì, così ricercata. Certo. L'antesignano di tutto un genere, il prodromo di tutta una serie. Ah, mi piace quando fa così. Proseguiamo tra un prodromo e l'altro con l'augurio di buon compleanno a Sheryl Crow, che nasceva nel 1963, e chiudiamo con Jennifer Aniston, attrice di Friends, che nasceva anche lei l'11 di febbraio del 69. Sì, che ha avuto il privilegio di essere la compagna di Brad Pitt. Dunque, la ragazza Ne sa di gossip internazionali? Assolutamente sì, sono informatissimo, quindi la ragazza più invidiata di tutti gli States. Un bel applauso per Jennifer Aniston. E me che c'è? California Girls, David Lee Roth nella diretta di quest'oggi, puntata 180 di Pane, Burro e Rock and Roll, una trasmissione che spesso e volentieri, com'è come non è, raccatta i radioascoltatori e le radioascoltatrici, un orecchio per i vostri problemi, per i vostri dubbi. Così fu parecchie settimane fa, prima di tutta la bazza del carnevale rock, di tutte che... con Claude, un radioascoltatore che ricorderete per dei meravigliosi provini degli Iron Maiden. Pronto, Claude? Pronto, meravigliosi un po' poco. No, guai, i due provini che ci avevi fatto in diretta... Aspetta. Ah, sono gli unici che ho fatto con voi, perché altri dopo non ho più fatti, quindi... Esatto, in molti poi mi hanno chiesto, ma com'è andata la cosa di Claude, l'hanno preso, non l'hanno preso? In realtà poi, per questioni da quello che ho capito tue, personali, lavorative, il provino non l'hai nemmeno fatto. Esatto. No, delusione. Piuttosto che lasciare i ragazzi là in attesa, hai senza fatto... garanzie, vedete, hai fatto bene. Di qualcun altro. Peccato, perché noi eravamo con te, insomma. Vabbè, il problema però è un altro. Medaglia. Sì, medaglia, proprio medaglia. Perché già ci parlasti di una tua amorosa che ti dava una mano, ti aiutava per le per così gli allenamenti alla voce, perché anche lei era una cantante. Medaglia. Che succede? Non lo fare pesare più di tanto. No, perché Claude stamattina Praticamente una sua amica gli ha detto che c'era un gruppo che cercava una cantante femminile per da mettere nel loro gruppo, lei ha provato e l'hanno presa. Medaglia. L'hanno presa ieri, cioè, lei manco cercava, lei si faceva gli affaracci suoi. E si è trovata, ha cantato, ha detto sì, va bene, sei dentro. Vabbè, cioè. Ma sarà una band bruttissima. No, loro sono anche bravi, studiano anche musica, il tastierista fa il conservatorio, tutte quelle cose. Aia, Claude la piglia malissimo. Sì, abbastanza. Cioè, io sono contento per lei, per carità, però vuoi esserci io al suo posto. Intanto medaglia, ma fa bene, Claude, lasciati andare all'invidia, no problema. È molto rock, l'abbiamo deciso. Ah, io gliel'ho già detto, io ti invidio, esatto. Oh, quando ti si libera un po', che ritorni a fare i provini, diccelo che noi sponsorizziamo sempre. Beh, certo, va bene. Un saluto a te e all'amorosa a sto punto. Grazie. Facci sapere se va tutto bene. Ciao, va caro. Ciao. Molti chiedevano, ma che fine ha fatto? Eccola qui, Claude e il provino per gli Iron Maiden. Vabbè, proseguiamo con Rocky Mountain Way, Joe Walsh. Sono anni bui quelli che viviamo, sa, dopo l'11 settembre c'è tensione. Ma che dice bui? Più che oscuri. Direi proprio oscurati. Di sì. Capita, grazie alla redazione, di scoprire stramberie che accadono intorno al mondo, e proprio a questo proposito avrei uno strano ma vero di quest'oggi, sa, per l'allarmismo antiterrorista. Godo. Lancia la sigla? Ma sì, lei non ci crederà, comunque dica. Ci tenevo a dirlo, dica. Che in questo buio generale, sì, gli strano ma vero, ovvero nelle ansie e in ansia, sì, sono come lampi, sono come lampi di luce. Lanci la sigla, la prego. Lo strano ma vero. Allarme bomba in cantiere, artificieri, era un vibratore. È successo davvero, per quanto strano, tutto vero. Un pacco sospetto rinvenuto all'interno di un palazzo in costruzione a Göteborg, in Svezia, ha fatto scattare l'allarme bomba e costretto gli artificieri ad un intervento immediato, conclusosi fortunatamente senza feriti, ma con tante persone imbarazzate e al contempo divertite. È successo così, alcuni operai giunti sul posto di lavoro hanno visto un piccolo pacco che emetteva uno strano ronzio. I più arguti hanno pensato immediatamente ad una bomba. Il ronzio, del resto, poteva essere generato da un circuito elettrico. Preso il telefono in mano, hanno avvisato la polizia, che a sua volta ha richiesto l'intervento della squadra artificieri. Evacuato il cantiere e lasciato campo libero ai professionisti del settore, hanno osservato la scena da lontano. Gli agenti, ad una rapida analisi, si sono detti poco convinti si trattasse di un ordigno, perché non si sentiva alcun vero ticchettio. Comunque sia, prese le dovute cautele, hanno scartato, cioè aperto, l'involucro, il pacchetto. All'interno, sorpresa delle sorprese, quello che doveva quasi certamente essere un regalo per una lei, un vibratore che per una serie di coincidenze, magari perché gettato via con impeto, si è acceso. Al momento non si hanno elementi per individuare il proprietario o la proprietaria di questo giocattolo. Non ci aspettiamo che qualcuno venga a reclamare il dispositivo, ha commentato Strannegard, uno degli artificieri intervenuti sul posto per disarmare il presunto ordigno, o almeno per ora, ha aggiunto, nessuno ha richiesto di tornarne in possesso. Ho la morale della favola di quest'oggi, Frick. Me la dica per cortesia? Se regalate un vibratore, togliete le pile. Se no, la pigliano per bomba. Molto giusto, e comunque non lasciatelo incustodito. Man didn't know about rock and roll.